Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Federico Zampaglione, regista del film The Well, al cinema da giovedì 1 agosto 2024, ben trovato. Ciao, buongiorno. Cosa hai raccontato? È un horror che sposa varie atmosfere, si parte dal gotico e poi si entra in un mondo molto oscuro, molto sanguinario, che insomma sta scuotendo parecchio gli spettatori nelle anteprime. Il film ha avuto un divieto ai 18 proprio perché è stato considerato molto intenso come esperienza, ecco. E quindi io sto in giro per le anteprime, sarò a Umberti, sono al Cinema The Space per questa ultima anteprima e poi l'1 agosto lasciamo andare il film nelle sale. Come nasce tutto? Tutto nasce dalla voglia di ritornare al mio genere preferito, che è l'horror. Io già avevo fatto due film di questo tipo, poi c'era stata una pausa con un film sulla musica, Morrison, e adesso sono ritornato, diciamo, a quello che veramente è il mio stile della vita, e quindi l'horror e atmosfere torbide, cupe, spaventose. L'idea del pozzo mi ha sempre inquietato, sin da ragazzino. Mi ricordo quell'episodio terribile di Alfredino Rampi, il bambino che cadde nel pozzo. E questa cosa, insomma, mi rimase molto dentro, per cui ho sempre identificato il pozzo come un luogo spaventoso, inquietante. Da lì è nata l'idea, insomma, di sviluppare questa storia. Come hai deciso di metterla in scena? Qual è stato il lavoro? È stato un lavoro molto lungo, molto anche proprio impegnativo, perché tra la scrittura del film, le riprese, tutto il lavoro di montaggio, di post-produzione, sono passati più di 2 anni e io poi, quando mi metto a fare le cose, purtroppo sono perfezionista di natura e quindi mi ci metto a capofitto, per cui ho lavorato come un pazzo e ho cominciato poi da ottobre scorso a portarlo in tutti i festival, perché il film è stato selezionato nei maggiori festival del cinema fantastico in generale a livello internazionale, e siamo arrivati a quota 104 paesi venduti del film. Subito dopo l'uscita italiana ci sarà quella americana e mi sta dando delle grandi soddisfazioni, perché gli amanti del genere lo apprezzano molto, c'ha tutte recensioni ottime dappertutto, sia in Italia che all'estero, e pare proprio che la gente si spaventi, insomma, a vederlo, c'hanno paura, insomma, i personaggi anche sono molto inquietanti. Ci sono degli ottimi attori, Lauren Lavera, che era la protagonista di Terrifier 2, c'è Tyler Jaggi, c'è Jonathan Dylan King, c'era il grande Giovanni Lombardo Radice nella sua ultima interpretazione sullo schermo, c'è la Gerini, c'è mia figlia Linda, è un cast molto variopinto di attori che hanno dato veramente delle belle prove. L'horror è la tua grande passione, quali sono le tue ascendenze artistiche? L'horror io l'ho sempre seguito sin da ragazzino, ho visto migliaia di film di questo genere e ho varie fonti di ispirazione, dai grandi maestri del passato a cose più recenti, quindi è un panorama molto largo. Sono cresciuto vedendo i film di Argento, di Fulci, di Tava, poi però anche tanto cinema internazionale, Carpenter, Wes Craven, e poi ho continuato sempre a coltivare questa passione continuando a guardare film negli anni, ancora oggi. Non dico che mi guardo un horror al giorno, ma insomma più o meno siamo lì. A tuo modo di vedere, qual è il rapporto tra l'horror e la realtà quotidiana? Beh, 10-1 come orrore vince la realtà quotidiana, nel senso che l'horror comunque è sempre qualcosa che viene fatto per esorcizzare le paure e comunque è fantasia, è creatività, è visione. La realtà purtroppo è di una brutalità, di una crudezza, di un'efferatezza che è micidiale, per cui certi fatti di cronaca non sarebbe neanche possibile trasformarli in un film, perché non ti darebbero neanche il visto censura, soprattutto quando vai a toccare i minori, i bambini, le cose. Nella realtà è diventata una roba che io ho il terrore di leggere, i fatti di cronaca, e fatti che spesso poi avvengono all'interno dei nuclei familiari, cose che ti lasciano veramente senza parole. Quindi diciamo che la realtà, come sempre, purtroppo è peggiore di ogni fantasia, e probabilmente uno dei motivi per cui io amo l'horror e mi piace farlo è proprio perché esorcizzo le paure di questi tempi bui. Il film in quante sale, che uscita sarà? Considerando il tipo di film che è, credo che sarà un'uscita intorno alle 65 sale, uscirà in tutti i cinema The Space, uscirà nei Giometti, uscirà nel Unici a Roma, pure c'è diversi cinema in cui lo fanno, l'Odeon, il Lux, il The Space. Quindi insomma, alla fine, considerando che è un film che ha preso il VM18, considerando che è un film di genere, quindi un horror, e soprattutto un film indipendente, è un piccolo miracolo, perché oggi nelle sale italiane è difficilissimo trovare film indipendenti, al di là del fatto che siano horror o no, proprio io parlo indipendenti, perché non siano film di major. Il film The Well al cinema da giovedì 1 agosto 2024, un saluto e un ringraziamento al regista Federico Zampaglione. A presto! Un ringraziamento a te, ciao, buona giornata! Con Enrico Paolantonio, regista del film La bicicletta di Bartali, al cinema da giovedì 1 agosto 2024, ben trovato. Grazie, grazie dell'invito. Cosa racconta questo film? Principalmente racconta la storia di un'amicizia non facile tra un ragazzo ebreo e un ragazzo arabo. Dico non facile perché la storia principale è ambientata in una Gerusalemme contemporanea, e la loro amicizia, che nasce grazie alla passione per il ciclismo, per le biciclette, non è ben vista dalle rispettive comunità. E in questa storia in qualche modo abbiamo legato una storia che per noi è un pochino più vicina, che è la storia di Bartali, ma non raccontiamo le gesta sportive che quasi tutti conoscono, ma raccontiamo l'aspetto del campione un po' meno conosciuto, nel senso che lui durante la guerra, grazie a uno stratagemma di nascondere i documenti falsificati di cittadini ebrei italiani, è riuscito a salvare circa 800 di questi ebrei, e questo fatto si è saputo solamente in età molto avanzata, perché lui non voleva assolutamente che durante la sua vita si sapesse di questo gesto eroico che aveva fatto, tant'è che diceva: il bene si fa ma non si dice. Come nasce il progetto di questo film? Il progetto di questo film è stato seminato qualche anno fa. È un'idea che è venuta fuori da un esponente della comunità ebraica di Roma, Itre Sebrescati, che aveva scritto il soggetto e che purtroppo è venuto a mancare non molto tempo fa, quindi non ha potuto vedere il film finito, e aveva appunto questa idea di raccontare, attraverso un po' il gesto di Bartali, collegare un po' la situazione che in qualche modo purtroppo, nonostante la sua idea di qualche anno fa, è ancora attuale nella data di Gerusalemme. Diciamo, questo è stato un po' l'inizio, che poi ha fatto partire un po' tutta la macchina del film, che essendo un film d'animazione è una macchina sempre abbastanza complicata da completare. Com'è stata poi la lavorazione? L'animazione in genere richiede dei budget abbastanza importanti, ci sono diversi produttori che sono intervenuti per portare finanziamenti al film, a partire da Rai Kids, che ha finanziato parte del film, la società di produzione alla quale appartengo, che è l'Inks Multimedia Factory, e poi coproduttori stranieri, una società irlandese e una indiana. Quindi il film in realtà ha anche un respiro internazionale, verrà distribuito anche fuori dai confini italiani. Quando sei subentrato nell'operazione? Da subito, è stata quasi contemporanea alla presentazione del soggetto in Rai da parte appunto dell'autore, e da lì è partita l'operazione. Insomma, di solito il regista viene coinvolto quasi subito in questa operazione, perché questo è tutto un lavoro anche di ricerca e di studio grafico legato al film, che è importante, insomma, che il regista sia presente fin dall'inizio. Cosa ti convinceva di questa storia? convinceva innanzitutto a raccontare appunto questo aspetto di Bartali che era poco conosciuto, ma anche poter rappresentare una situazione, diciamo appunto, complicata che esiste appunto nella terra di Gerusalemme. Non dico dare dei messaggi, perché è difficile con un film dare dei messaggi, più che altro magari trasmettere delle emozioni e poter far riflettere agli spettatori del film su quelle che sono situazioni a volte per noi un po' lontane, e poi alla fine neanche tanto, non solo poi in realtà lì in Israele, ma anche in altre parti del mondo, purtroppo lo vediamo costantemente. E ci sembrava, non solo a me, ma insomma anche a tutto lo staff, agli altri produttori, un progetto importante da portare avanti. A proposito della Valenza, c'è il muro di separazione creato da Israele che viene giù nel film e diventa una pista per le biciclette prima di dissolversi. Sì, in realtà ci sono molti aspetti, ovviamente non volevamo fare un documentario, cioè non si tratta di documentario, e quindi anche in un'animazione c'è anche della finzione. Il muro però siamo partiti da un muro reale che esiste, che insomma, appunto si chiama muro di divisione, come se gli altri muri non lo fossero, cioè comunque è un muro di divisione, e ci siamo concessi solamente nel finale, è una parte un pochino più onirica, che appunto, come dici tu stesso, insomma il muro viene giù, ma semplicemente è un po' la speranza che noi abbiamo e che probabilmente è anche quello che sperano i due protagonisti del film quando poi nella gara finale attraversano appunto la città di Gerusalemme sopra questo muro di fantasia. Che uscita sarà? In quante sale? Diciamo che la distribuzione cinema non è semplicissima, quindi per adesso probabilmente uscirà in una sessantina di sale, e poi ovviamente dipenderà anche dall'accoglienza. Ci rendiamo conto che non è un film facile, cioè non è un film di supereroi, perlomeno non con il mantello che volano, e che ha dei messaggi anche non semplici da passare, insomma. Devo dire che fino adesso, anche nella prima struttura che abbiamo avuto al Gipponi, ha avuto un'accoglienza sorprendente, ci ha veramente sorpreso. Cioè che a volte sottovalutiamo anche la capacità di bambini molto piccoli di capire quali sono i punti essenziali di un'opera come questo film. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? C'è il sito della società, di Links Multimedia Factory, andando sul cinema, ma anche altri lavori insomma che portiamo avanti. Il film La bicicletta di Bartali al cinema da giovedì 1 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Enrico Paolo Antonio. Grazie a voi, grazie mille. Con Simonetta Grechi, curatrice della 23ª edizione del Clorofilla Film Festival a Festambiente alle Nauli di Rispescia dal 7 all'11 agosto 2024, ben trovata. Grazie, ben trovati a voi. Spieghiamo cos'è questo festival. È un festival che nasce dentro le Cambiante, che parla quindi di tematiche ambientali e sociali, da spazio a documentari in particolare, e poi c'è una parte di Festambiente, oltre ai documentari sono previste anche altre attività come presentazioni di libri e spettacoli al tramonto. Poi vabbè, Festambiente ovviamente ha nel suo programma tante altre iniziative. Quanti sono i titoli presentati? A Festambiente sono una decina, mentre la selezione sono circa 30 documentari nel concorso generale, quello dedicato appunto ai temi ambientali e sociali. Poi avremo più avanti la sezione AgriDoc, che penso arriverà sulla decina di titoli, e altrettanti per una nuova sezione che abbiamo aperto quest'anno, che si chiama Montanaria e che riguarda documentari legati alla montagna. Questo perché ci sono arrivati tantissimi lavori su questi temi e quindi abbiamo pensato di aprire proprio una finestra specifica. Il sottotitolo del Clorofilla è la nuova linfa del cinema italiano. In questo senso spieghiamo com'è la scelta artistica dei titoli. I titoli vengono scelti attraverso una call sulla piattaforma Film Freeway e da lì parte tutta la selezione dei documentari, per cui attingiamo a quello che ci arriva tramite piattaforma. Ci sono, nel caso di Festambiente, due casi che abbiamo scelto in autonomia rispetto alla piattaforma, e sono Un paese di resistenza, che è diventato al Biografilm a giugno e parla di Mimmo Lucano, dalle stesse autrici di Un paese di Calabria, e Pericolosamente vicini, che invece parla di, del rapporto tra uomo e orso in Trentino, e questa è, diciamo, un'anteprima, perché uscirà in sala a fine agosto, quindi la proiezione di Clorofilla rientra tra le anteprime che Wanted, che è la casa di distribuzione, ha portato prima dell'uscita in sala. Saranno presenti anche autrici e autori dei film? In buona parte sì, saranno presenti anche gli autori, sì. Inoltre il Clorofilla ha la caratteristica di essere un festival diffuso. A Rispescia ci sarà la sua parte centrale, ma collabora anche con altre rassegne e festival sia prima che dopo. Sì, sì, in questo periodo abbiamo collaborato per esempio su Grosseto, che è poi la nostra città di riferimento, con l'associazione Clan, con l'associazione Kansas City, con le Vie dell'Orto, portando un po' il cinema nel centro di Grosseto, perché a Grosseto sono 7 anni che non c'è più un'area estiva, e quindi ci siamo un po' rimboccati le maniche e abbiamo creato delle piccole rassegne diffuse nel tempo in questi mesi. Tra l'altro c'è proprio una rassegna che si chiama La Maremma in quanto il Festival dei Popoli, che è curata dall'associazione Kansas City, dalla Mediateca Digitale della Maremma, che appunto riguarda i documentari del Festival dei Popoli. Poi dopo ci sarà la Festa del Cinema di Mare a fine agosto, con cui collaboriamo, andremo a Saturnia, Saturnia Film Festival, poi Antropocine, che è la rassegna curata da Marino Midena. Insomma, ci sono delle situazioni in cui c'è uno scambio e una collaborazione ormai da diversi anni. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Per quanto riguarda Clorofilla, ci sono le pagine Facebook e Instagram, Clorofilla Film Festival. Per quanto riguarda poi tutto il programma, sempre riguardo i social, le pagine di Festa Ambiente e i siti clorofillafilmfestival.it e festambiente.it. Che tramonti allo spazio dove si aspettano le proiezioni, e lì quest'anno avremo sia libri che teatro, avremo anche Gaza Ora con il teatro nel bicchiere, per cui siamo molto felici di questa collaborazione il 9 agosto nell'Oliveto, Gaza Ora, e poi ovviamente ci sono tante altre cose, tante altre piccole perle tra teatro e parole. 23esima edizione del Clorofilla Film Festival a Festa Ambiente alle Nauli di Rispescia dal 7 all'11 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Ci vediamo lì. Grazie Federico, ci vediamo il 7. Ciao a tutti. Con Sergio di Cinemaforte per presentare Centocelle City Movies a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dall'11 luglio al 1 agosto 2024. Ben trovato. Grazie mille, ciao a tutti e a tutti. Raccontiamo il senso dell'arena. Anche quest'anno siamo riusciti a mettere insieme una rassegna, organizzarci in autogestione per realizzarla, e si proietterà soltanto giovedì su due arene, una nell'arena parco esterna al forte di fronte al ponte Levatoio e l'altra nell'arena interna di destra all'interno del forte Prenestino. Quindi saranno due proiezioni ogni giovedì, appunto dal 12 luglio al 1 agosto, con un evento speciale il martedì 30 luglio, dove siamo felicissimi di presentare Una vita all'assalto, che è il documentario di Paolo Faccini e Francesco Principini sugli assalti frontali. Saranno con noi ospiti di Tantà e Polgì, questo riguarda martedì 30 luglio alle ore 21. E questa proiezione in particolare verrà fatta all'interno del forte nella piazza d'armi di sinistra. Per quanto riguarda il programma dei giovedì, abbiamo l'11 luglio Povere creature di Dantimos nell'arena esterna e Perfect Days di Wim Wenders nell'arena interna. Il 18 luglio, in arena esterna, la parte seconda del film Dune di Denis Villeneuve e all'interno, nell'arena interna, Foglie al vento di Aki Kaurismäki. Il 25 luglio l'ultima opera di Ethan Coen, Drive Away Dolls, e nell'arena interna proietteremo Mano d'opera di Alain Huguetot, che è un film di animazione francese molto ben realizzato, molto delicato anche, che parla appunto della discriminazione degli italiani negli anni 50 in Francia, che dovrebbe farci riflettere su tanta discriminazione, su tanti suprematismi che adesso vengono assolutamente sdoganati in tranquillità. E chiudiamo il 1 agosto con la proiezione dello struggente e straordinario film di Ken Loach, The Old Dog, nell'arena esterna, mentre nell'arena interna il film La Sala Professori di Kerr Chatak. I film inizieranno alle 21.30 e prima di ogni proiezione, di ogni film, verrà proiettato uno dei cortometraggi tratti dal Nazra Palestinian Short Film Festival delle passate edizioni, che è questo festival che noi come Forte supportiamo sin dalla sua nascita e che a ottobre vedrà la presentazione della nuova edizione. Quindi insomma, noi sempre ringraziamo tantissimo la grandissima opera di sensibilizzazione e divulgazione che compie Nazra Palestinian Festival ormai da anni. Com'è stata la scelta quest'anno? È stata semplice da un lato e non scontata dall'altro. Semplice perché è anche molto divertente, perché effettivamente i film prodotti nel corso del 2023-2024 sono stati tanti. Parlo dei film interessanti, i film d'autore, i film di impatto e film anche ricchi di contenuto. Per cui da questo punto di vista è stato, diciamo, letteralmente divertente scegliere tra i più belli. Ecco, diciamo che non è stato faticoso da questo punto di vista, ma non è stato facile, scontato, escludere alcuni titoli, se non per il fatto, parlo di alcuni titoli importanti, ecco, noi siamo molto affezionati, tipo Furiosa e altri simili, perché non sono semplicemente ancora stati pubblicati, e non abbiamo un'altra scelta che continuiamo a mantenere, di proiettare film doppiati, questo per rendere accessibile la visione del film a un pubblico il più ampio possibile, in quello che è il nostro paese, che non è così avvezzo ai film tradotti e sottotitolati. Per quanto ci sia accesso a film che non sono ancora stati distribuiti, cioè film in lingua originale con i sottotitoli italiani che non sono stati ancora distribuiti, abbiamo comunque scelto di non proiettarli. Sto parlando di alcuni film delle produzioni A24, e insomma sono tanti titoli, e quindi diciamo da un lato la facilità e la felicità di scegliere fra tanti film belli è la stessa cosa che ha generato la difficoltà del definire questo programma, però dico la verità, siamo molto contenti. E un altro film che avremmo voluto proiettare è l'ultimo di Miyazaki, che però appunto non era ancora disponibile per file o il supporto per la proiezione, però siamo molto contenti perché effettivamente è stato un anno produttivamente, distributivamente ricco, senza dubbio. Tutti i riferimenti web per il programma? Sul nostro sito www.fortetrentino.net abbiamo anche due pagine Facebook, una si chiama Eventi CSOA Forte Trentino, che è la pagina ufficiale di comunicazione delle attività del Forte, e la pagina Facebook Cinema Forte, connessa al CSOA ovviamente, da non confondere con altre pagine che da questo punto di vista sono fuorvianti, che è la pagina appunto dell'attività del Cinema Forte. Centocelle City Movies a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, da giovedì 11 luglio a giovedì 1 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. A presto! A presto, grazie Radio, grazie a tutte. Con Graziano Malvolti, protagonista del documentario Repubblica Ossiura, la montagna anarchica di Giovanna Poldi Allai, in streaming su OpenDDB, distribuzioni dal basso. Ben trovato! Ciao anche a voi tutti! Cos'è questo lavoro? Beh, questo documentario nasce durante il delirio pandemico, con tutta l'ordalia sanitaria che ne è costituita. Quindi la Giovanna, che è un'amica da tanti anni, si è trasferita da Parma qui nel paese, così non sapendo cosa fare e dovendo per forza stare in casa, insomma, è nata l'idea di raccontare una storia che prende un po' il territorio e un po' la vita delle persone, compresa la mia. Che storia è questa della Repubblica Ossiura? Beh, questa è una cosa che nasce negli anni 80 tra un gruppo di amici qui il paese, insomma, era l'epoca della globalizzazione che iniziava, del disgelo, insomma, e avanti e indietro. E vabbè, facciamo una piccola radio postale, che si chiamava Radio Blizz, che è un pezzo anche nel documentario, e da lì inventiamo uno stato che non esiste, prendendo a riferimento l'Ocusiambeno, insomma, delle cose che erano successe. E ci ispiriamo all'intestino, quindi nasce questa Repubblica Ossiura in realtà virtuale, perché allora poi il virtuale non c'era la posta e le cassette, c'era le BDS, non c'era internet. Era un virtuale così, nel senso che era per dire che le cose si possono fare anche in un altro modo, e che le modifiche delle cose potevano partire anche dai piccoli posti, quindi la riscoperta del dialetto e quant'altro fanno parte di questa roba. Io, amici, eccetera, eccetera. Dopo questa è diventata anche la mia vita, mi sono nati dei figli che siamo diventati contadini e quindi qua siamo. Quante persone coinvolge questa esperienza? Beh, per adesso diciamo che a livello tribale, quindi tre figli, io, Anita e le compagne di un po' dei figli, insomma, 6, 7, 8, più o meno siamo quelli lì. Com'è strutturata la vostra comunità? È strutturata attualmente a livello per l'appunto tribale, facciamo un po' di cose, abbiamo iniziato con l'agriturismo e l'allevamento dei cavalli, poi siamo passati alle patate, alla canapa e poi siamo arrivati alle capre e quant'altro, insomma si è svolta così, dove ognuno si trova lo spazio che crede, insomma. Poi sono nate anche delle altre cose, con uno dei figli che si è messo a fare il meccanico, utilizzando quello che c'era. Pratica, quindi riciclando il più possibile, cercando di usare un altro pensiero che non era solo quello economicista imperante, insomma. E dopo, durante appunto la pandemia, ci è venuto voglia di raccontarla, tutte queste varie vicissitudini, battaglie ambientali, insomma, cose che si facevano con un gruppo di ispirazione anarco-libertaria, diciamo, di persone che non coinvolgeva solo la famiglia, ma altri, Benedetto, Azeo, gente che in realtà non un grande numero di persone, però con un'idea. Siete in rapporto anche con altre esperienze da altre parti? Beh sì, poi noi siamo nati con un prestito della mutua autogestione, non so se conosci Max 6, insomma, quella che si chiamerebbe finanza etica o critica, che ci si voglia. Quindi abbiamo sempre cercato di rapportarci con risultati non sempre rose e fiori, ma insomma siamo rapportati il più possibile con gli altri. L'idea era proprio quella di aprire un po', partendo dal piccolo, un territorio, insomma, nel paese delle vacche, allevare capre è sempre un problema, per dire. E così anche tantissime altre cose, le varie attività anche culturali che si fanno. Però in un posto piccolo hai il vantaggio che riesci a fare delle cose dove probabilmente in un posto grosso ti risulti impossibile, no? Per poche persone fare delle cose. Il vantaggio di un posto disabitato, comunque insomma più simile a un ossario, è questo, insomma, lascia degli spazi che possono essere utilizzati. Ci siamo dati da fare negli anni per utilizzarli, insomma, in definitiva. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più su di voi? Sì, abbiamo una pagina sul sito che è madenrock.eu e dopo da lì si accede anche a tutte le varie cose del circolo Zambonini, insomma altre attività anche collaterali non solo legate all'agriturismo, insomma. Lì si può vedere un po' di quello che negli anni è stato prodotto, canzoncine, piccoli spettacoli teatrali e altre cose, insomma. Poi c'è un po' di roba anche su OpenDDB, dove c'è anche il documentario. Il documentario Repubblica Ossiura, la montagna anarchica di Giovanna Poldi Allai, in streaming su OpenDDB, distribuzioni dal basso. Un saluto e un ringraziamento al protagonista Graziano Malvolti. A presto! Ciao a tutti e teniamo botta. Ciao ciao! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.